Siamo con Gaetano Salerno, coordinatore cittadino di Sinistra Ecologia e Libertà. Come stanno andando queste primarie? Beh, direi bene, un'affluenza sopra le migliori attese. Per adesso sembra che i votanti saranno circa il doppio di quelli preregistrati. Nel mio seggio, io sono presidente di seggio nel seggio 7 in Crocetta, in via Labruzzi, e anche lì le persone che non si erano preregistrate e che hanno votato superano il 60%, come era prevedibile. Speriamo che la giornata continui così.